Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia di Luca Giambonino, dal titolo Anima, quella di vita scintilla e riluce, in altri più ed in altri meno, volto del creatore impresso in noi, per poi volare via verso siderali cieli di stelle e universi nuovi e sconosciuti all'uomo. Io la chiamo anima, e voi?